Focus Economia. Con Simone Spezia. Buonasera, care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a Focus Economia. Per chi è stato costretto a subirmi questa mattina a 9 in punto, beh, gli tocca anche la prossima ora e mezza. Insomma, per oggi Sebastiano Barisoni non c'è e indegnamente lo sostituisco. Allora, iniziamo da parlare di mercati. Perché? Perché sicuramente la notizia più importante da questo punto di vista è stata la decisione della Federal Reserve, o meglio la non decisione, di lasciare invariato il programma di acquisto di titoli da parte della Fed a 85 miliardi di dollari. E naturalmente, come era lecito attendersi, i mercati hanno festeggiato naturalmente negli Stati Uniti, hanno festeggiato in Asia e festeggiano anche oggi in Europa. Parigi guadagna mezzo punto percentuale, Francoforte lo 0,43%, insomma in lieve calo in realtà oggi è l'America, però insomma ieri le cose sono andate bene, meno 0,17% sul Dow Jones. L'Italia vede il FTSE All Share guadagnare un punto percentuale, il FTSE MIB l'1,10%. Di Fed parleremo, perché c'è chi, come ha fatto il professor Donato Masciandaro oggi sul Sole 24 Ore, critica la linea della Banca Centrale Americana sotto vari aspetti, insomma criticando anche lo stesso impianto del sistema di acquisto di titoli di Stato. Ne parleremo, così come parleremo del... che non è un decreto, per il momento è una bozza, è un progetto, quello che è stato annunciato oggi dall'esecutivo, dal governo, che ne ha discusso in via preliminare. È una cosa che si chiama Destinazione Italia. Dico una cosa non perché al momento non trovo termine, nel senso non è un provvedimento. Si chiama Destinazione Italia ed è un progetto per attrarre investimenti esteri. Sentiremo le voci di oggi della conferenza stampa. Vi si prevedono una serie di cose: semplificazioni, facilitazioni per le aziende straniere, una semplificazione che passa anche per una semplificazione non solo amministrativa, ma anche dal punto di vista della giustizia, che come sappiamo è un grandissimo problema in questo paese. Non c'è nessun riferimento a questioni penali che riguardano ex presidente del Consiglio, ma ci riferiamo naturalmente alla giustizia amministrativa e alla giustizia civile, insomma, che rappresentano spesso un problema, un fattore di blocco degli investimenti per questo paese. Ci occuperemo, e come non farlo, dell'inchiesta su Equitalia. Inchiesta su Equitalia, ci sono degli indagati, si parla di imprenditori che pagavano funzionari di Equitalia per ottenere delle rateizzazioni alle quali non avevano diritto. E cercheremo anche di approfondire il tema, perché qua naturalmente la questione è nella cronaca, no? Nei fatti di questa inchiesta, che vedremo come andrà a finire. E però c'è un tema più generale che riguarda Equitalia, del quale tante volte abbiamo parlato, e della discrezionalità di Equitalia su questi temi, insomma anche sulla possibilità di trovare un accordo col contribuente che si è scoperto insomma non aver pagato tutto quello che doveva pagare. E quindi questa discrezionalità che cosa porta? Porta evidentemente alla tentazione per qualche funzionario di esercitare questa discrezionalità in pieno, facendosi pagare qualcosina. Questi i temi principali di oggi. Toccheremo anche in parte ancora il tema dell'IVA, stiamo sempre là, manca 1 miliardo di euro, oggi circolavano addirittura voci di minacce di dimissioni da parte del ministro Saccomanni, che dice: ragazzi, qua i soldi non ci sono per togliere l'aumento dell'IVA di un punto, che dovrebbe scattare tra una decina di giorni, alla fine del mese, insomma siamo a martedì, non quello che viene, quello della settimana successiva, mentre l'Europa ci dice che Se il governo italiano conferma che quest'anno il rapporto deficit-PIL sarà al 3,1%, dovranno essere decise delle misure per rispettare gli impegni. Questa è la posizione della Commissione europea, secondo quanto hanno indicato fonti comunitarie. Questi i temi principali di oggi. Veniamo a un punto, come sempre, con le notizie della giornata. Ovviamente c'è il numero degli sms 349-238-6666, se volete intervenire e dire qualcosa potete anche scrivermi su Twitter, mi trovate Simone Spezia. Oro in mercato guadagno oggi a $1,365 l'oncia, con un progresso di oltre il 4%, mentre invece si registra un calo per quanto riguarda il petrolio, il WTI con consegna d'ottobre meno 0,12%, a $107,9 al barile, mentre invece il Brent, sempre in questo caso con consegna a novembre, meno 0,6%, con un prezzo di $109,9 al barile. Intanto scendono anche i prezzi dei carburanti, i prezzi raccomandati sulla rete nazionale, questo lo segnala Quotidiano Energia. Qualche discesa, IP meno 2 centesimi di euro al litro sulla benzina, meno 0,5 sul diesel, anche Total Erg, giù anche Esso e Kuwait, Tamoil a ribasso solo sul diesel con meno 1 centesimo. Le punte in alcune aree sono per la verde fino a €1,87 al litro, il diesel a €1,77. Le borse, abbiamo detto, sono in rialzo dopo le decisioni della Federal Reserve, dopo le decisioni del FOMC, il Federal Open Market Committee, il Comitato di Politica Monetaria della Federal Reserve, che ha deciso di mantenere il piano di acquisto di bond e titoli di Stato americani all'attuale livello, $85 miliardi al mese, tassi invariati allo 0,025%, è ridotto però le stime sul PIL 2013-2014. Nel frattempo arrivano altri dati interessanti dall'America. Questi sono dati di oggi invece. Il superindice economico in agosto ha registrato un aumento dello 0,7%, dato migliore delle attese degli analisti, mentre crescono i sussidi di disoccupazione della scorsa settimana di 15.000 unità a 309.000. Da notare che però è un dato anche qua migliore delle attese, perché gli analisti si attendevano una crescita fino a 330.000. Sempre dall'America, JP Morgan ha patteggiato, pagherà $920 milioni alle autorità inglesi e americane per risolvere la disputa sulla cosiddetta balena di Londra, London Whale. Il trader Bruno Ixil, che aveva assunto posizioni talmente importanti sui derivati da influenzarne l'andamento. L'Irlanda, visto che anche di Europa si parla ed è giusto farlo, esce dalla recessione. Nel secondo trimestre 2013 il PIL segna una crescita dello 0,4% dopo il meno 0,6% del trimestre precedente. Ed era dal secondo trimestre 2012 che Dublino non registrava un trimestre in espansione. Il dato però è inferiore alle stime degli economisti. Segnatevi la data, 1° ottobre è il giorno nel quale presumibilmente, quasi certamente, aumenterà l'IVA. Per rimandare l'aumento serve 1 miliardo di euro. Servono anche 2 miliardi e 400 milioni per la cancellazione della seconda rata IMU. Servono anche tra i 6 e i 700 milioni per il rifinanziamento della cassa integrazione. E 2-3 miliardi per mantenere il deficit al di sotto del 3% del PIL. i 6 e i 7 miliardi da reperire da qui a fine anno. L'Europa, come si diceva, fa sapere che un deficit al 3,1% è diverso da un deficit al 3%. E serviranno misure eventualmente per riportarlo al 3. Tra l'altro il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta dice che la previsione di un 3,1% non è irrealistica. E dice Baretta che abbiamo il 50% di possibilità a 10 giorni dall'aumento dell'IVA, il 50% di possibilità, e vabbè, insomma, di scongiurare l'aumento. Ma solo se si considera l'IVA in una partita complessiva, dice Baretta. E va bene, e va bene, non serve una manovra correttiva, siamo sostanzialmente sull'obiettivo. Parola di un altro esponente del Ministero dell'Economia, il vice ministro Stefano Fassina, ascoltiamolo. Abbiamo pochissime risorse, obiettivi diversi, l'IVA, evitare l'aumento dell'IVA, intervenire sull'IMU, integrare le risorse per la cassa integrazione in deroga, le missioni internazionali, e dobbiamo scegliere. Tutto non si può fare, il vincolo di bilancio che abbiamo fu assunto dal governo Berlusconi nel 2013, non è un capriccio di Letta o di Saccomanni, e credo che dobbiamo tener conto di quelle che sono le priorità degli italiani, non del PD. Mi chiedete, quindi alzano l'IVA per pagare le nuove assunzioni di 100.000 persone tra bidelli e insegnanti, si riferisce al decreto scuola? No, no, no, no. Quelle assunzioni le finanziano con un aumento dell'accisa sugli alcolici a valere a partire dal 2014, arrivando fino al 2015, non vi preoccupate, insomma, la copertura non manca, la pescano da qualche tasca, in questo caso appunto è l'accisa sugli alcolici. Un saluto all'ascoltatore che scrive se mi pagano gli straordinari e sente più me che sua moglie, anche mia moglie in questi giorni sente più spesso in radio che a casa. Allora, un emendamento del Partito Democratico alla delega fiscale, questo è un tema che è stato affrontato molto, come pagano le tasse le multinazionali, visto che tra l'altro abbiamo parlato anche della crescita del PIL irlandese proprio un attimo fa. Allora, Google e le multinazionali del web dovranno pagare le imposte in Italia per le attività riferibili al nostro paese in percentuale ai ricavi. Questo è un emendamento del PD alla delega fiscale, approvato in Commissione Finanze della Camera. Il problema di queste cose è che anche se le approvi, poi bisogna vedere se riesci a metterle in atto, insomma. Comunque, il provvedimento c'è, o almeno l'emendamento c'è. La questione Equitalia, decine di perquisizioni disposte dalla Procura di Roma in un'inchiesta che coinvolge funzionari, molti episodi di corruzione, questo alla base dell'inchiesta, che naturalmente è solo un'inchiesta, insomma, è stata di fatto aperta l'indagine. La Guardia di Finanza ha acquisito documenti nelle sedi centrali di Roma, di Equitalia e dell'INPS. 5 gli indagati, tra i quali l'ex direttore regionale Equitalia del Lazio e attuale della Liguria. Cosa avrebbero fatto? Avrebbero garantito vantaggi finanziari a imprenditori e professionisti, accogliendo istanze di rateizzazione di cartelle esattoriali anche in assenza di requisiti. E avrebbero anche interferito nelle procedure di versamento dei contributi previdenziali, alterando sia la correttezza dei dati, sia la loro visibilità. E questo con che obiettivo? In modo che la stessa azienda, diciamo così, per la quale lavoravano, ossia Equitalia, rinunciasse ad adottare procedure di esecuzione immobiliare, insomma i pignoramenti. I 5 indagati sono l'ex dirigente Equitalia, l'abbiamo detto, un attuale dipendente, un imprenditore, un commercialista e un intermediario. Gli accertamenti coinvolgono altri 13 imprenditori, professionisti e dirigenti delle agenzie di riscossione di tributi. Ne parleremo più avanti nella seconda parte della trasmissione, a partire dalle 18. Come vi dicevo, ci saranno, faremo un riassunto di nuovo delle notizie che sono arrivate fino adesso e che saranno arrivate fino a quel momento, ma soprattutto approfondiremo sul ruolo di Equitalia e sulla discrezionalità di Equitalia, dalla quale evidentemente rischiano di uscire episodi di di marciume. Equitalia nel frattempo assicura la massima collaborazione ai magistrati e francamente ci mancherebbe altro. Il commercialista Mario Tagarelli, per rimanere all'Italia, che è il custode amministratore giudiziario dei beni sequestrati a partire dal 9 settembre scorso al gruppo Riva, ha ricevuto l'immissione in possesso, così si dice tecnicamente, vuol dire che insomma ci può mettere le mani, sulla somma di denaro bloccata dalla Guardia di Finanza sui conti correnti di 50 milioni di euro e di alcune decine di immobili. I verbali di immissione sono stati notificati al custode dei militari delle Fiamme Gialle. Vedremo se questo sbloccherà qualcosa, appunto, dal punto di vista di Rivacciaio e degli stabilimenti. Ultima notizia, secondo indiscrezioni, sono solo indiscrezioni, il consiglio di amministrazione di Air France KLM si riunirà il 23 settembre prossimo per decidere se presentare un'offerta per il controllo di Alitalia, questo allo scadere del vincolo di cosiddetto lock-up il 28 ottobre. Air France, lo ricordiamo, è il primo azionista della compagnia italiana con il 25% delle azioni. Il gruppo franco-olandese è stato interpellato dalle agenzie di stampa, non ha però commenti da fare né sull'indiscrezione né sul dossier Italia. E a proposito di investimenti esteri in Italia, anche se insomma non parliamo solamente di questo, di una vicenda così complicata anche come quella di Alitalia, parliamo di altri investimenti esteri, quelli che potrebbero arrivare, quelli che si vogliono far arrivare. Stamattina c'è stato il Consiglio dei Ministri per dare il via libera al cosiddetto progetto Destinazione Italia, il piano articolato in 50 punti per rimettere in moto la competitività del sistema paese e soprattutto attrarre investimenti esteri. Per darvi un'idea, ci sono i dati forniti da Boston Consulting. Gli investimenti esteri sono passati dai 34 miliardi del 2007 a meno di 10 miliardi nel 2012. Inizieranno le consultazioni con tutti i soggetti interessati che si concluderanno in 2-3 settimane e in ottobre arriverà l'adozione definitiva. È previsto un roadshow per presentare le novità ai mercati internazionali, che in questo caso è particolarmente importante. Prima tappa a New York la prossima settimana, poi 7, 8 e 9 ottobre tappa nei paesi del Golfo. Misure immaginate. Immaginate perché al momento non c'è nulla di concreto. Sconti fiscali per investimenti superiori ad una certa soglia, procedure standardizzate e modelli unici per autorizzare attività produttive. Io voglio sperare a questo punto, e fatemelo dire, che queste regole poi le facciano valere anche per gli imprenditori italiani, perché va bene attrarre investimenti esteri, per carità, è importante, però con tutte le storie che abbiamo raccontato, non solo dai microfoni di Radio 24 ma dalle pagine del Sole 24 Ore, moltissimo di investimenti bloccati per iter autorizzativi andati, scusate l'espressione, in vacca o bloccati da chissà quale amministrazione locale o chissà quale TAR o chissà che cos'altro, voglio sperare che queste regole vadano a valere per tutti gli imprenditori, non solamente per quelli stranieri. Poi, taglio al costo del lavoro e semplificazione della disciplina del lavoro, con testi anche in inglese, riduzione del costo dell'energia e poi si parla anche di un piano di dismissioni e privatizzazioni. Si prevede anche la nascita di un'apposita agenzia per attrarre capitali stranieri che accorperà in un unico soggetto le funzioni di Invitalia, ICE, Desk Italia e Comitato Strategico del Ministero degli Esteri. Speriamo in bene. Sentiamo il Presidente del Consiglio, Enrico Letta. È un modo per rendere più internazionale il nostro modo di rapportarci con il mondo, è un modo per agevolare, per aiutare, per semplificare. Qui dentro troverete 50 misure, sono 50 misure iperconcrete, hanno a che vedere con la gestione delle controversie sul lavoro, la questione del meccanismo automatico per accelerare e dare certezza agli interpelli fiscali, la modalità di rideterminazione delle sanzioni tributarie, la questione delle discipline sulle blacklist, molte questioni infrastrutturali, tante occasioni che qui dentro vengono citate e vengono raccontate, il piano degli aeroporti, la questione delle bonifiche. Ci scrivete: con questa pressione fiscale, questa burocrazia, questa ingiustizia, sicuramente, il tono ironico è, sicuramente arriveranno gli investimenti esteri. Vedremo che cosa uscirà da questo piano destinazione Italia, insomma. Più che la pressione fiscale, questa è la mia piccola fissazione, è una questione di incertezza fiscale, perché mi scrive un altro ascoltatore, giustamente dice: ma scusa, ma come fai una persona a fare dei lavori in casa o dei programmi se prima ti dicono che tolgono l'IMU, poi l'IVA non aumenta, poi l'IMU forse la rimettono, adesso l'IVA aumenta? Dice, insomma, come si fa a programmare un investimento così? Probabilmente lo pensano anche gli investitori stranieri e probabilmente il governo pensa di metter mano anche a queste cose. Sentiremo altre voci da questa conferenza stampa, magari un'altra di Enrico Letta e poi Zanonato e il ministro Bonino, perché sono stati tutti coinvolti. Mi scrivete al 349-238-6666. Chi mi scrive questo piano destinazione Italia, chiamiamolo destinazione baratro, adesso non esageriamo. Mentre invece esplode la genialità italiana: sono un imprenditore, visto che la burocrazia è così tanta, scrive un ascoltatore, vado all'estero, mi fingo imprenditore straniero e poi chiedo all'agenzia di nuova costituzione di sbrigarmi tutte le pratiche. Niente male. Dice Enrico Letta nel corso della conferenza stampa: al via il percorso di privatizzazioni. Sul tema privatizzazione ovviamente confermo che questo sarà uno dei capitoli del lavoro dell'autunno, al Ministero dell'Economia ci stanno già lavorando, farà parte del DEF, della nota di aggiornamento al DEF e poi ovviamente di tutti i percorsi successivi. Per quanto riguarda l'IVA semplicemente non ne abbiamo parlato in Consiglio dei Ministri, ci saranno occasioni nei prossimi giorni per parlarne. E devo dirle, caro Giorgio, che anche lei ci scrive che ogni provvedimento finisce con la creazione di un'agenzia. Ci ho pensato anch'io. Vedremo, magari funziona, eh. Allora, ancora Letta, dice: l'Italia non è né un outlet ma neanche Fort Apache. Sentiamo cosa vuol dire. È un tentativo molto forte di dire che il nostro paese dal punto di vista economico e finanziario non ha paura della globalizzazione, anzi il nostro paese è un paese che cerca di stare dentro i fenomeni di globalizzazione usando la sua forza per attrarre investimenti secondo un modello che vuole essere quello, voglio usare uno slogan, che non è né da una parte l'outlet che svende tutto ciò che ha a disposizione ai prezzi più bassi possibili pur di fare realizzo, ma non è nemmeno Fort Apache, che siamo tutti a difendere con i denti tutto ciò che c'è di italiano e farlo rimanere dentro il perimetro di Fort Apache. Quindi non è l'outlet che svende, non è Fort Apache solo a difesa, anzi è un modo per rendere più internazionale il nostro modo di rapportarci con il mondo, è una modalità ovviamente che non vale soltanto per gli investimenti esteri, vale per gli investimenti degli italiani anche, per far sì che investimenti italiani che se ne sono andati ritornino. E vediamo, vediamo. Nel frattempo, a proposito di investimenti esteri, è stato raggiunto l'accordo per la gestione delle quote di maggioranza tra Massimo Moratti ed Eric Thohir in un vertice a Parigi. Secondo quanto riferiscono le agenzie, sarebbero stati sciolti gli ultimi nodi legati alla lunga trattativa. Il 70% dell'Inter sarà dunque ceduto al magnate indonesiano e le firme sarebbero attese per la prossima settimana. Quindi dicono Letta e assicura anche il ministro Zanonato che il piano avrà l'obiettivo di favorire gli investimenti esteri, ma molte misure faciliteranno anche investimenti italiani. Qua attendiamo alla prova dei fatti. Alla missione, dice Zanonato, questo provvedimento che verrà, di accompagnare gli investitori e di fare in modo che diventi facile investire nel nostro paese. A disposizione del progetto, Emma Bonino, ministro degli esteri, mette la rete diplomatica della Farnesina. Anche qua, vecchia storia, speriamo che funzioni. Quante volte ne abbiamo parlato? Non è solamente la questione dei visti, come è già stato detto, che pure non è una questione minore, nel senso che nella mia esperienza di ministro del commercio estero di qualche anno fa, questa era veramente una questione di grandissima rilevanza. E come avete visto, già stiamo cercando di chiudere parecchie agenzie consolari, che ne so, in Svizzera piuttosto che per essere più aperti in zone in cui non siamo. Quindi anche la ristrutturazione, diciamo, di una rete da questo punto di vista di modernizzazione è indispensabile, con tutte le resistenze che conosciamo e che diamo per scontato, in modo da saperle per superarle, insomma. Ne vogliamo molto bene, che ne so, la comunità italiana a Spalato, ma forse per 41 passaporti all'anno possiamo andare per via telematica, ecco, mentre invece in intere province cinesi, piuttosto che da altre parti, non ci siamo proprio. Quindi diciamo la rete della Farnesina, che peraltro andrà potenziata almeno in alcuni mercati di particolare interesse, di personale qualificato e specializzato, perché attrarre investimenti, non mi stanco di dirlo, non è la stessa cosa che promuovere l'export. Così Emma Bonino. Il numero per intervenire in diretta via SMS è il 349-238-6666. Mi chiedete che cosa vuol dire Letta con quella storia di Forta Pace dell'outlet. Non l'ho capita tantissimo nemmeno io, a dire la verità. Comunque, la borsa. Ciao Condina, Radio Cori, il Sole 24 Ore, buongiorno. Ciao, buonasera a tutti. Anzi sì, buonasera, scusami, io sono abituato ad andare in onda dalle 9 alle 10 di mattina e quindi il buongiorno è automatico. Bene, bene i mercati, perché la Fed, a differenza di quanto, come abbiamo detto prima, non ci si aspettasse, ha deciso di mantenere gli acquisti di titoli, di bond e titoli di Stato americani sugli stessi livelli, 85 miliardi, no? Assolutamente, diciamo che è stata una decisione leggermente migliore di quella che si aspettavano i mercati, quindi già dall'apertura di oggi subito le principali piazze europee sono avanzate di quasi un punto percentuale, Milano poi è stata la migliore, più 1,4%, poi invece per quanto riguarda proprio l'Eurostoxx. Sull'Italia gioca anche il fatto che il messaggio ieri di Berlusconi non abbia chiuso le porte al governo? Decisamente sì, insomma, sicuramente nella scorsa settimana si era visto che la borsa comunque è sensibile anche agli equilibri del governo italiano e anche questo ha giocato un ruolo rilevante. Poi c'è anche la questione delle banche che sono andate bene in tutta Europa e che a Milano hanno un peso preponderante, quindi il FTSE MIB sale sempre più che proporzionalmente rispetto agli altri listini continentali in questi casi. Come mai le banche? Diciamo che comunque il fatto che la Fed continui a sostenere l'economia e diciamo crea anche una distensione sul mercato poi dei tassi di interesse non può che favorire le banche, che a sua volta poi sono legate anche all'andamento degli spread. Naturalmente, e oggi dal lato degli spread le cose sono andate bene. Allora, il titolo migliore sul FTSE MIB Mediolanum, appunto, si diceva, più 4,82%, e bene anche Intesa San Paolo, più 3,65%. Ci sono cose specifiche poi che riguardano Mediolanum e Intesa? O... Più Intesa e Unicredito, c'è stato un report di Goldman Sachs. Che... Unicredit più 2,66%, prego Ceo. Sì. Insomma, Goldman Sachs, come sappiamo, è una delle più influenti banche d'affari del mondo, forse la più influente. Secondo Goldman Sachs, il settore bancario italiano è interessante, è ben patrimonializzato, soprattutto per quanto riguarda le principali banche, e anzi Unicredito viene definita la miglior banca italiana su cui investire. Per quanto riguarda Intesa San Paolo è stato alzato il target price, cioè il prezzo obiettivo. Insomma, in generale le due big italiane del credito hanno ricevuto una valutazione positiva da Goldman Sachs e il mercato li ha premiate. Bene, oggi anche Tenaris è il terzo titolo migliore sul FTSE MIB. Ci sono motivazioni particolari qua su oppure Tenaris, più 3,65%. Bene anche Azimut più 3,5%, Prismian più 2,3%, la Popolare di Milano più 2,23%, Enel più 2,01%. È andata bene anche, ecco, si dice la Popolare di Milano più 2,23%, cioè... E qui ci sono nuove indiscrezioni sul piano del presidente Andrea Bonomi, che poi è anche il primo socio della banca, per una trasformazione dell'istituto in SPA. Diciamo che sarebbe un progetto leggermente più soft rispetto a quello che Bonomi aveva provato a far passare nei mesi scorsi, che poi era stato bocciato dai sindacati della Popolare di Milano. Un passaggio a una società per azioni per una banca come BPM potrebbe anche rappresentare un'apertura al risico bancario, comunque un'apertura al mercato in generale, che come vediamo è apprezzata dagli operatori, più 2,2% infatti. A proposito di risico, c'è quello delle multi-utility, non a caso A2A fa un più 1,32%, e non è il primo giorno che vanno bene le cose, No, no, diciamo che il titolo anche oggi è ben intonato, ai massimi da marzo dell'anno scorso, e diciamo che parallelamente a un percorso di risanamento, soprattutto del debito della società, c'è anche questo nuovo discorso su un possibile risico delle multi-utility, indiscrezione alimentate sia da quello che è stato l'incontro settimana scorsa dal ministro Zanonato, dei principali vertici delle multi-utility, sia poi dalle dichiarazioni di Piero Fassino, il sindaco di Torino, che è poi uno dei primi azionisti di IRE nell'altra multi-utility del nord. Secondo Fassino è giunto il momento, sono ripresi i dialoghi appunto per una nuove aggregazioni all'interno del settore, aggregazioni che sembrano piacere agli operatori di Piazza Affari. Chiedete di Montepaschi, poco mosso oggi, meno 0,10%, comunque in territorio negativo, negativa anche Ansaldo STS, meno 1,43%, Mediaset, meno 1,34%, per questa volta Ceo Condina, le vicende del Cavaliere non c'entrano, no? No, ci sono gli analisti di Barclays che ahimè hanno, insomma, peggiorato, hanno rivisto un po' le valutazioni del settore editoriale europeo. E quindi sostanzialmente in ragione di questo la raccomandazione del gruppo del Biscione è stata portata underweight, cioè sottopesare il titolo in un potenziale portafoglio, abbassata anche il prezzo obiettivo, sostanzialmente insomma una bocciatura per un titolo che comunque è cresciuto tantissimo nell'ultimo periodo, qualche realizzo meno 1,3% è fisiologico. Benissimo, e Telecom invece meno 0,25%? Ma oggi c'era questa riunione informale, Tarak Ben Ammar l'ha definito un pranzo, una chiacchierata tra amici, non so se è stato realmente così, comunque sostanzialmente i protagonisti di quello che sarà il riassetto della prima compagnia telefonica italiana si sono visti in vista di quello che poi sarà il CDA del 3 ottobre, in cui forse verrà presa una decisione. Gli operatori sono tenuti abbastanza prudenti, visto che il titolo ha chiuso quasi piatto. Grazie anche per oggi ai colleghi grazie di Radio Corriere sulle 24 serata. Ore e grazie a Ceo Condina. Noi adesso andiamo, come annunciato, sui motivi per i quali i mercati oggi sono andati bene, e vogliamo però raccogliere una voce critica sull'operato della Fed. borse in rialzo, le vicende ve le abbiamo raccontate, ve le abbiamo dette. Si è deciso, ha deciso la Federal Reserve di non ridurre gli acquisti di titoli di Stato e bond ipotecari che l'istituto compra ogni mese per 85 miliardi di dollari. Ci si aspettava una riduzione da 10-15 miliardi di dollari. Donato Masciandaro, editorialista del Sole 24 Ore, docente di economia monetaria all'Università Bocconi di Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno professore. Allora, l'ho letta molto critica oggi sul Sole, l'ho letta insomma molto duro con Bernanke, come mai? Perché quello che di fatto la Fed sembra fare ogni mese è lanciare una moneta in aria e poi dire quello che fa o quello che non fa in termini di acquisti di titoli di Stato. Quello che voglio dire è che siamo tutti d'accordo che la situazione eccezionale deve finire, siamo tutti d'accordo che la situazione eccezionale deve finire in modo intelligente, cioè senza strozzare la ripresa, e serve una politica credibile. Ecco, il punto è che non c'è niente di credibile in quello che sta facendo Ben Bernanke, sia per quel che riguarda gli obiettivi che ha individuato, sia per quanto riguarda lo strumento che sta utilizzando. E vado avanti? Sì, sì, sì, assolutamente. No, voglio capire bene. Innanzitutto sullo strumento, perché è di questo che stiamo parlando, no? Sono due facce della stessa medaglia, dice lei. Di una stessa medaglia, perché prima della crisi c'erano dei comportamenti credibili nelle banche centrali industriali dei paesi industrializzati, perché si sapeva che i tassi di interesse reagivano agli shock dal lato della domanda e dal lato dell'offerta, quindi essenzialmente sul prodotto interno lordo e sui prezzi. E questo si sapeva e si comprendeva ed era credibile. Oggi che cosa accade? Oggi accade che la Fed innanzitutto segnala come suo obiettivo, a parità di quello scontato, a cui ormai non pensa più nessuno, tanto non lo citano quasi mai, solo lo citano per cortesia, quello dell'inflazione, parla di disoccupazione. Ora, se c'è una cosa che ti dicono alla prima lezione di macroeconomia del primo anno, ti dicono che quando bisogna individuare degli obiettivi della politica monetaria non si prende quello il più lontano, quello che non si può controllare. Nessuno parla mai di disoccupazione, adesso si parla di disoccupazione. E in secondo luogo, gli strumenti della politica monetaria sono i tassi di interesse, qualche tempo fa c'erano le quantità di moneta, ma senza questi strumenti il resto non ha senso. Che senso ha parlare di acquisti minori o maggiori, ma acquisti minori o maggiori rispetto a quale bussola? Punto. Quindi è anche molto divertente vedere che fino a ieri tutti si aspettavano una caduta e razionalizzavano con dotte spiegazioni perché si sarebbero ridotti gli acquisti, e da stamattina tutti stanno razionalizzando sul perché invece non è successo. E questo giochettino continuerà fino alla metà di ottobre, dove Ben Bernanke di nuovo tirerà in aria il dollaro e a seconda del verso che esce ci dirà cosa farà. Quindi lei dice: abbiamo una banca centrale americana, quindi una delle principali istituzioni finanziarie del pianeta, insomma, no? Che è senza strategia, secondo lei? È senza strategia, o meglio, una strategia c'è, la strategia è quella di non far nulla. La strategia è quella di non far nulla, perché non facendo nulla quello che si continua a fare è iniettare mese per mese liquidità nel sistema. E questo rende felici almeno due soggetti. Rende felici i mercati finanziari, anche con comportamenti anche paradossali da spiegare per esempio in aula, e rende felici i democratici. I mercati finanziari hanno un orizzonte cortissimo, qualche volta giorni, qualche volta ore, qualche volta minuti, o anche meno. I democratici stanno pensando alle elezioni, quindi quello che deve continuare è la politica dell'emergenza, la politica della continua iniezione della liquidità. Almeno queste due constituency, che sono delle straordinarie alleate, non usuali, in questo momento lavorano in questa direzione. In questo senso lei dice l'operato della Fed è opaco. Assolutamente. Opaco, ma credo di aver... No, sa perché, sa perché glielo chiedo, professore? Perché noi per definizione tendiamo a pensare che gli operati delle banche centrali siano opachi, nel senso che no, non, il livello di informazione sia sempre relativo. Allora voglio capire un po' meglio che cosa intende. Intendo che anche questo mi sembra un po' un gioco di parole. Non è vero che le banche centrali sono diventate più trasparenti, addirittura la Fed sta facendo questi giochettini dando i voti sulle politiche della comunicazione. Allora, il grande equivoco è tra comunicare una politica monetaria, cioè fare qualcosa e capire come farla comprendere ai mercati, e invece fare comunicazione politica, nel senso che di fatto non fanno nulla e cercano di spiegare che non fanno nulla. Quello che voglio dire è che l'unico barometro è la volatilità dei mercati. Ebbene, quello che sta facendo la Fed non sta riducendo l'incertezza. Eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri SMS. Ci sono critiche al professor Masciandaro che critica la Fed, però insomma. Quello che voglio fare adesso però con lui, che è ancora in linea con noi, professore, c'è? Ci sono, è parlare dei rischi di tutto questo, dei rischi. Allora io... ammetto sempre la mia ignoranza, quindi per me spesso su queste cose, no, il Sole 24 Ore è il luogo giustamente al quale mi rivolgo, e non solamente perché è del mio gruppo editoriale. Non nel suo commento di oggi, ma nel pezzo di Riccardo Sorrentino, leggo questo. Come risultato della mancanza di leadership della Federal Reserve, che lei tra l'altro ha perfettamente evidenziato, e del rinvio di ieri, gli analisti e gli operatori si chiedono se non sia la Fed addirittura spaventata. E non è un'ipotesi assurda. Il punto qual è? La liquidità generosamente distribuita non ha creato inflazione, l'economia è troppo fredda, non ha gonfiato bolle, mancano segnali, ma ha alterato la valutazione, il prezzo dei rischi. Di nuovo, era già avvenuto prima della crisi. Dunque, la preoccupazione che ci esprimeva via SMS un ascoltatore, dice, insomma, quest'ondata di liquidità non ci riporta nelle stesse condizioni di prima del 2008? Ma guardi, l'ascoltatore ha fatto la migliore delle domande possibili, perché va al cuore del problema. La domanda è a che cosa serve l'eccesso di liquidità oggi? Allora, l'eccesso di liquidità ieri è servito a evitare che il disastro della crisi finanziaria fosse ancora peggiore. Apro una parentesi, come ricordava l'articolo di Sorrentino, il disastro della crisi finanziaria nasce già da un eccesso di liquidità. Chiudiamo la parentesi. Però di fronte all'emergenza si è cercato di minimizzare i danni. Ma oggi a che cosa serve l'eccesso di liquidità? Serve all'economia reale? No. Sono 5 anni che si stampano dollari, gli effetti sull'economia, se ci sono stati anemici e comunque non sono distinguibili. Cos'altro è cambiato? È cambiato il rischio, come ricordato dall'articolo di Riccardo Sorrentino. Allora, è vero, non vediamo inflazione, certo, non vedevamo inflazione neanche prima del 2008. È vero, non vediamo ancora una crisi finanziaria, certo, non vedevamo crisi finanziarie prima del 2008. Cioè, quello che sta succedendo è che stiamo scommettendo. Allora, finché scommette una bisca o finché scommette un privato cittadino, va bene, ma se scommette un'istituzione pubblica, è nell'interesse di chi? Chi è che ci sta guadagnando? Solo un soggetto. il soggetto che scommette sul breve termine, cioè la parte più miope, perché non sono tutti così i mercati finanziari, la parte più miope dei mercati finanziari. Che dire, professore? Allora, io la ringrazio e lascio sospesa questa risposta perché mi sembra importante e ci lancia qualche segnale di preoccupazione. Saremo a vedere che cosa succederà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Grazie al professor Donato Masciandaro, editorialista del Sole 24 Ore, docente di economia monetaria all'Università Bocconi di Milano. Buonasera, anzi, professore. Grazie a voi. E adesso ci occupiamo di vicende italiane in questa seconda parte della trasmissione su due fronti. Iniziamo da quello di politica economica. Qual è la questione? La stramaledettissima IVA, quel miliardo che non si trova, che non si riesce a trovare e che, stando a voci indiscrezioni, avrebbe spinto il ministro Saccomanni a dire: guardate, se insistete troppo mi dimetto. Dino Pesola del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Simone. Eccoci qua. Allora, un miliardo di euro da trovare, che si somma 2 miliardi e 4 per la seconda rata IMU, che si somma i soldi per la cassa integrazione, che sono tra i 6 e i 700 milioni, che si somma ad altri 2-3 miliardi per centrare l'obiettivo del 3%. Durissima, durissima, Dino. Beh sì, si tratta di individuare, noi l'abbiamo già evidenziato nei giorni scorsi sul giornale e altrove, insomma si tratta di individuare da qui alla fine dell'anno qualcosa come 4-5 miliardi, di fatto una manovra vera e propria, non facilissimo come ben si può capire, perché a ottobre individuare una tale quantità di risorse è un'impresa molto complessa, perché dove si vanno a recuperare? Molto difficile tagliare la spesa. Ma poi Dino scusami, hai detto bene, no? Perché qua si continua a dire, lo ha fatto anche il vice ministro Fassina oggi, dice non credo che servirà una manovra aggiuntiva, chiamala Pino, chiamala Giuseppe, chiamala come ti pare, ma se devi trovare 6 miliardi entro la fine dell'anno è una manovra nella sostanza. Nella sostanza è una manovra di cui una parte servirà, anche se si tratta di aggiustamenti contabili, ma comunque si parla di rinvii eventuali di pagamenti al prossimo anno, servirà per compensare questo miliardo e mezzo che serve per stare sotto il 3% del deficit. E va bene, e fino a qua ci siamo e non mi sembra una mission impossible. Quella che invece mi pare una mission impossible è recuperare il resto, perché domanda: come si fa a ottobre a recuperare qualcosa come 4-5 miliardi? È l'esperienza di tutti noi, anche la mia personale, di non pochi anni di manovre economiche, e la risposta è una sola: si alzano le tasse, perché come si fa a tagliare la spesa a ottobre? Si taglia la spesa a inizio anno con qualche difficoltà, se lo si fa a ottobre il peso relativo di questo intervento deve valere per l'intero anno, quindi insomma stiamo parlando di cifre imponenti. Quindi qua si tratta semplicemente di fare delle scelte, punto, cioè bisogna che il governo si metta attorno a un tavolo e dica quali sono le priorità. Se la priorità è l'IVA, allora bisognerà cercare di trovare questo miliardo, se non lo è bisogna fare aumentare l'IVA, c'è poco da fare. Poi si apre il dossier dell'IMU, è una priorità abolire anche la seconda rata? Se lo è dal punto di vista politico, ho qualche perplessità che lo sia anche dal punto di vista economico, allora si tratta di individuare altri 2,3 miliardi. In sostanza, secondo me, più che dal punto di vista dei conti, qui il problema fondamentale è che il governo deve decidere cosa vuole fare da qua a metà ottobre. E in ballo c'è, qua chiudiamo con te, a valere però immagino dal 2014 per un piano che è stato più volte definito anche dal ministro Giovannini pluriennale, la questione del cuneo fiscale, insomma altre risorse da reperire, anche se naturalmente sull'anno a partire dall'anno successivo. Ecco, questa invece secondo me sarebbe una priorità, perché insomma noi stiamo ragionando di varie cose, coperture difficili, anche la faticosissima copertura che il governo ha individuato per il decreto che è stato appena approvato, quello che ha di fatto soppresso la rata di settembre dell'IMU, Ma il punto fondamentale, e qui stiamo di nuovo al discorso sulle priorità politiche, ma se si ragiona in termini di emergenze e di urgenze, tutti siamo d'accordo che l'emergenza numero uno sia il lavoro, allora se si hanno 2 miliardi, 3, probabilmente là vanno indirizzati. Con la legge di stabilità l'operazione, per la verità, deve essere ancora più sostenuta, perché nella legge di stabilità occorre individuare, questo credo che il ministro Saccomanni lo voglia fare, poi non so se ci riuscirà, individuare almeno 4-5 miliardi per alleggerire il cuneo fiscale, e come lo si finanzia. E lì la strada maestra è attraverso gli interventi, diciamo, selettivi sulla spesa. Tocca tagliare la spesa, la grande maledizione di questo paese. Sì, non c'è dubbio su questo. Non ci arriviamo mai. Anche su questo punto bisogna pure chiarirci, perché poi si fanno molte chiacchiere. Che cosa si vuole tagliare? Ci sono certamente molte voci nel mare magno. E anche là, Dino, brevemente, perché poi dobbiamo andare in viabilità, è una questione di priorità politiche. Molto non c'è assolutamente dubbio. Io continuo a credere che la strada maestra sia anche un'altra, cioè se noi recuperiamo un minimo di credibilità, e questo attiene alla variabile politica. Lì lo sconto che potremmo avere sul fronte degli interessi che andiamo a pagare ogni volta che collochiamo sul mercato i nostri titoli, vale a dire il premio che i mercati potrebbero assegnarci perché siamo più credibili, quello equivale a 2 manovre economiche. E quindi è lì che bisogna spingere, senza stare a immaginare altre lacrime. Naturalmente, oltre ad essere tutti i CT della Nazionale, siamo tutti in grado di trovare le coperture necessarie. Chi ci scrive parlando dei costi della politica, chi naturalmente sui tagli di spesa, come evidente, le pensioni d'oro, ovvio, insomma, le liste in Svizzera, quelle degli evasori. A proposito di evasori, parliamo di Equitalia adesso. Nel mirino della Guardia di Finanza, tutta una serie di perquisizioni iniziate all'alba negli uffici delle società di riscossione a Genova, Roma e Tivoli. Poi c'è stata anche l'acquisizione di documenti nelle sedi centrali di Equitalia ed INPS. 5 indagati, tra cui l'ex direttore regionale Equitalia del Lazio, Roberto Damassa, e attuale direttore regionale della Liguria. Accoglievano istanze di rateizzazione delle cartelle esattoriali anche in assenza di requisiti. Naturalmente su pagamento c'era la stecca. E poi interferivano gli indagati nelle procedure di versamento, avrebbero interferito nelle procedure di versamento dei contributi previdenziali, alterando così sia la correttezza dei dati relativi ai pagamenti sia la loro visibilità. In questo modo la stessa Equitalia, per la quale lavorava uno degli indagati, rinunciava alle procedure di esecuzione immobiliare, i pignoramenti in sostanza. Però al di là dell'inchiesta, no? Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Vogliamo parlare di questo ruolo di Equitalia invece, no? Non è che Equitalia, della quale tanto si discute, tanto si parla, ne parleremo anche domani a 9 in punto, ha troppa discrezionalità, no? Nelle scelte per quanto riguarda i singoli contribuenti, come rateizzare, come organizzarsi, questo può favorire fenomeni di questo genere? Beh, diciamo che soprattutto è il sono le dimensioni del fenomeno a ampliare la possibilità. Non a caso si è andati sulle rateizzazioni dei debiti fiscali, che è uno strumento dato in mano a Equitalia nel 2008, quindi all'inizio, diciamo, quando si manifestavano i primi sintomi della crisi economica. Nel 2008 la crisi era ufficialmente solo finanziaria, diciamo così, ed è un fenomeno che poi è esploso. Dal 2008 a fine 2012 sono state accolte circa 1.800.000 domande di rateizzazione, sono state rateizzati qualcosa come 22 miliardi di euro di debiti fiscali. Le vicende emerse oggi si collocano in questo contesto. Allora, da un lato chiaramente 5-6 indagati e alcune decine per ora di casi sono appunto lo 0,00 qualcosa, diciamo, del grande macchinario di Equitalia, e questo va detto perché è così. Dall'altro sono un danno d'immagine pesantissimo appunto una struttura che già da un lato è, come dire, in discussione. Diciamo che l'immagine di Equitalia di suo non è, sì, non però, è il massimo. No, l'immagine come l'immagine di chiunque debba riscuotere dei tributi. In è l'immagine Italia, dell'esattore, esatto, che comunque non è mai in cima nella top 10 della simpatia, e non potrebbe esserlo. Diciamo che però c'è una particolarità italiana, perché da un lato negli anni buoni, diciamo così, è stato molto gonfiato il ruolo di Equitalia, il protagonismo di Equitalia e così via. Dall'altro, quando invece sono state introdotte un po' di norme un po' più rigide, diciamo così, contro l'evasione fiscale, questo ha coinciso con l'esplodere della crisi, quindi anche della difficoltà di molte piccole imprese, piccolissime, a essere in regola con i propri obblighi fiscali. E ci ricordiamo gli assalti alle sedi, ci ricordiamo nei casi, diciamo, più di polemica più accesa e meno composta, anche le polemiche sui suicidi di alcuni imprenditori e così via. E tutto questo naturalmente ha aumentato i problemi. In più, come è caratteristico di ogni ramo dell'amministrazione italiana, le norme sono sempre più come dire, incerte, e le prospettive sono sempre più incerte. Ricordiamoci per esempio che Equitalia avrebbe dovuto abbandonare la riscossione dei tributi locali da ormai 2 anni e ancora naturalmente non è avvenuto, no? Naturalmente non è avvenuto, sono state fatte 4 proroghe, l'ultima proroga aveva una particolarità rispetto alle altre, perché la norma dice Equitalia abbandona alla data XY la riscossione dei tributi locali. La prima data XY era il 31 dicembre 2011, poi è diventato giugno 2012, dicembre 2012, giugno 2013, bla bla bla, e le proroghe cambiano solo la data. L'ultima proroga ha la particolarità che ha detto che la data del 31 dicembre 2013 è inderogabile, cosa che non vuol dire assolutamente nulla, tanto è vero che, diciamo, chi vuole vincere facile, come dice lo slogan, può scommettere ci sarà un'altra deroga, ci un'altra sarà proroga. Un'altra proroga, non c'è il minimo dubbio. Naturalmente. Allora, qualche precisazione. Scrive Equitalia in un comunicato: nessun dirigente ha ricevuto avvisi di garanzia. Al momento risulta indagato un unico dipendente con sede di lavoro a Roma, che Equitalia ha provveduto ad allontanare in via cautelativa dal servizio. Quindi, stando al comunicato di Equitalia, la notizia che vi abbiamo dato, cioè il fatto che sia indagato il dirigente, quel dirigente del quale abbiamo raccontato, non è confermata. Già parte un po' di polemica in questo momento da parte del Movimento 5 Stelle, insomma parla di carrozzone Equitalia, Moloch burocratico criminale. Ora, al di là della retorica, Gianni, abbiamo un paio di minuti, un minuto e mezzo, come se ne esce? Qual è secondo te la via di soluzione, insomma? No, appunto, la polemica sguaiata dimostra appunto che il danno d'immagine è rilevante ed è esponenziale rispetto all'entità dei fatti per ora scoperti, insomma. Come se ne esce? In realtà, per esempio, sulla rateizzazione il fisco è venuto molto incontro ai contribuenti, allargando di volta in volta la possibilità di accedere, quindi abbassando i requisiti, ampliando il numero di rate e così via. In realtà, quindi, da questo punto di vista il problema non è puntuale su quello. Il problema qual è? Che nell'Italia delle emergenze continue, una settimana c'è l'emergenza della lotta all'inflazione, la settimana dopo c'è l'emergenza di tagliare le unghie a Equitalia, Moloch burocratico e criminale, come dice, come dire, per citare il Movimento 5 Stelle. Allora, se l'emergenza è A una settimana, Z una settimana dopo, da un lato con una mano si fanno norme per rendere più vigorosi gli strumenti, in primo luogo i pignoramenti eccetera eccetera, dall'altro si toglie invece potere a Equitalia, il tutto in una grande polemica continua, costante, che non ha una direzione. Allora, se noi ci decidiamo diciamo sulle priorità, sulle 2-3 priorità, visto che di risolvere tutto non se ne parla nemmeno, non ci sono le capacità almeno in questa fase, avere un minimo di stabilità sugli strumenti permetterebbe anche a Equitalia di gestire, diciamo, con meno fatica gli strumenti stessi, e al contribuente di avere un'idea un po' più chiara, da un lato dei suoi diritti e dall'altro dei suoi doveri. E quindi il problema è sempre là, ed è il classico problema italiano. Anche Equitalia, apprendiamo da Gianni Trovati, ha dei problemi con la certezza del diritto e con le norme che cambiano di volta in volta, di giorno in giorno, di mese in mese. Chiudiamo qua la trasmissione. Un ringraziamento a Gianni Trovati, al Sole 24 Ore, per essere stato con noi, sempre prezioso e chiaro nella sua esposizione. Grazie a Pietro Lacorte in regia, Mauro Del Corno in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Oggi mi avete subito per fin troppo tempo. Ci sentiamo domani con 9 in punto, però solamente 9 in punto. A domani. Radio 24. La passione si sente.